Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Benvenuti e benvenuti a Mebius. Noi cominceremo questa puntata con il grande mistero della fetta di pane che cade sempre sul latte farcito, imburrato. È stata una grana venuta fuori quest'estate e dalle domande che voi ci mandate risolveremo anche questa sfida. Buonasera a tutti, invece poi continueremo a parlare di, non di big data come facciamo di solito, ma di pig data, ovvero il porno visto solo ed esclusivamente su numeri, grafici e tabelle. Pig vuol dire porcellone, ricordiamocelo. Poi invece qualcosa di decisamente bello e positivo, dopo tante docce fredde che ci sono state quest'estate sulla possibilità, no, di recuperare fondi per la ricerca sulla SLA, una ricerca italiana sta dando risultati a quanto pare molto interessanti per quanto riguarda la diagnosi di questa brutta malattia. E in conclusione invece vediamo se si può realizzare un manuale che descriva tutte le forme del disagio mentale. È possibile, è stato fatto, ma questo testo ha scatenato un acceso dibattito. E parleremo di ciò in conclusione. Benvenuti e benvenute a Mebius. È scoppiata una grana pazzesca a seguito di queste domande tremende che ci mandate, sì, di tipo scientifico. Il dibattito si accende. Esatto, però la grana è scoppiata per un'altra trasmissione che io te facciamo. La nostra d'estate, trasmissione gemella, sì, Elementare Watson, quella che è nata in onda per tutto agosto. Chiedevamo agli ascoltatori di mandarci le proprie domande, loro ce le mandavano e noi cercavamo di rispondere a tutto. Una di queste era... Allora, se l'accelerazione di gravità è costante, a prescindere dal peso, come mai la freccetta del badminton cade sempre con la parte pesante verso il basso? E lo stesso vale per le bombe sganciate dagli aerei, oppure per le fette di pane che cadono sempre dalla parte farcita? Ecco, qui rapidamente diamo la soluzione, sì. Soprattutto della prima parte, perché poi sulla seconda c'è una lunga spiegazione da dare. Allora, per quanto riguarda le bombe e le palline del badminton, dicevamo che sono costruite ad hoc per cadere in quel modo. Cioè la parte più pesante sotto non dipende dalla gravità, perché ovviamente l'accelerazione è costruito l'oggetto in modo da intercettare, no, il flusso d'aria e si mette in quel modo. Ecco, la spiegazione sta proprio nella forma dell'aria, nella resistenza dell'aria. Questo lo archiviamo. Passiamo alla fetta. All'epoca abbiamo chiamato il nostro esperto, che ora risalutiamo, che è qui con noi questa sera, Emiliano Ricci. Ciao Emiliano. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera. Allora, noi lo chiamiamo sempre il nostro fisico di fiducia, perché lo chiamiamo per tutte queste questioni annose, e anche in questo caso ci devi aiutare, nel senso che ripartiamo dalla fetta imburrata. Perché sì, cade allora, sempre? La fetta imburrata è un fenomeno che appunto, è abbastanza curioso. Un'osservazione che si fa scientificamente è quella di vedere quando se lasciamo per l'appunto una fetta di pane imburrato o con la marmellata sul tavolo, tipicamente se cade sul lato imburrato. Il motivo è stato studiato addirittura a livello scientifico, esiste una pubblicazione scientifica sull'argomento, è legato praticamente all'altezza da cui cade la fetta di pane. Sostanzialmente i tavoli su cui sono appoggiate queste fette sono altezza 80 cm, un metro, cose di questo tipo. Se la fetta di pane, se il baricentro della fetta di pane si sposta e quindi mette in moto la rotazione della caduta, sostanzialmente la fetta di pane da quell'altezza fa in tempo a fare soltanto mezza rotazione. E quindi nell'ipotesi che la fetta di pane si è appoggiata ovviamente dal lato non farcito, la mezza rotazione fa sì che sul pavimento finisca la parte farcita. Anche perché effettivamente sul tavolo tu la tieni con la parte farcita che ti guarda, non sotto. Teniamo la parte farcita che ci guarda, certo. Anzi ci fa venire c'è qualche perverso. Se il tavolo fosse invece alto, non so, 2 o 3 metri, ecco che allora il fenomeno cambia, perché avremmo tempo di far compiere più rotazioni alla fetta di pane e quindi avremmo è possibile studiare il movimento, ma possiamo anche trovarci nell'ipotesi che in realtà da una certa altezza la fetta di pane cada non dal lato imburrato ma dal lato quello non farciso. Ebbene, a seguito di questa spiegazione ci è arrivata una mail molto carina ma anche un po' critica, che appunto mette in dubbio questa spiegazione e dice che ci arriva, ecco, ricordiamolo, dal nostro ascoltatore Alberto, che dice che secondo lui invece è tutta una questione di baricentro, cioè imburrando un lato e non l'altro si aumenta in qualche modo la densità, perché il burro e la marmellata sono più densi, quindi si aumenta anche il peso della fetta e quindi la questione è che il baricentro viene spostato. È così un po' la domanda che lui ci ha fatto, noi te l'abbiamo mandata, no? Sì, esattamente, questo è, diciamo, è un'osservazione interessante, da un certo punto di vista corretta, però diciamo lo studio anche lo studio scientifico che citavo poco fa parte dall'ipotesi, che è l'ipotesi di lavoro tipica, che la farcitura non sia troppo spessa, e anzi quando si parla di fetta di pane imburrato in genere si parla di una lamina sottile di burro, e con il burro e con la marmellata in parte penetra solo nella fetta di pane, quindi nell'ipotesi che la farcitura sia sottile rispetto alla fetta di pane e rispetto alla fetta biscottata, il fenomeno dello spostamento del baricentro è sostanzialmente trascurabile. E questo sta anche scritto nella pubblicazione scientifica che citavamo poco. Ah, la pubblicazione scientifica affronta questo tema. Affronta il problema di quanto è imburrato. E anzi, proprio lo affronta in termini critici. Dice: di solito si pensa che il motivo sia questo, quello dato dall'ascoltatore. In realtà il motivo è che non c'è tempo per la fetta biscottata di ruotare di girarsi, di più. E anche perché praticamente lo spostamento del baricentro che cita l'ascoltatore è minimo nel caso di farcitura sottile. Sì. Il caso diverso è se noi siamo golosissimi. Te viene da ridere, ma so che ecco. E se metti un dito di marmellata o di Nutella? Una montagna di crema spalmabile o di marmellata sulla fetta di pane. A quel punto effettivamente entra in gioco lo spostamento del baricentro, questo certo, quindi c'è un cambiamento di quello che tecnicamente i fisici chiamano il momento di inerzia del corpo solido composto dalla fetta di pane e dalla marmellata, dal burro, dalla crema spalmabile, che implica una rotazione diversa. Questo però cosa fa? Rafforza il fenomeno, nel senso che effettivamente se già la fetta di pane cadeva dal lato farcito, a maggior ragione cade dal lato farcito, e forse cadrebbe anche dal lato della marmellata, la marmellata abbondante intendo, anche se il tavolo magari era più alto. Ecco, forse. Si tratta di verificare, bisogna fare un po' di esperimenti, qual è l'aspetto di volo. Ora parlavate prima del badminton, del volano del badminton e delle bombe che hanno appunto una forma tale da assumere un assetto in volo legato alla resistenza dell'aria. Sì. Ora la fetta di pane è una cosa un pochino disomogenea, un po' particolare, sì. Però è vero, e questo è anche stato studiato, che se noi scaviamo la fetta di pane in modo da fare una parte, come dicevo, un lato convesso e uno concavo, possiamo fare in modo da fargli assumere un assetto certo. in volo e farla cadere dal lato del volo. Ecco, però voglio dire, per avere la massima certezza, si potrebbe, cioè un'azienda potrebbe fare delle fette di pane tipo bomba, sì, e così tu ci puoi mettere sopra un sacco di Nutella con la punta piena di Nutella, se no, già fatta. Certo. Senti, Emiliano, abbiamo 30 secondi, mi piacerebbe ricordarla perché era molto carina quando ce l'hai raccontata appunto durante Elementare Watson. Se ci racconti un attimo il paradosso del gatto imburrato in 30 secondi, perché è troppo divertente. Sì, il paradosso del gatto imburrato parte da due ipotesi. Una è quella appena detto, che la fetta di pane cade sempre dal lato imburrato, e l'altro il fatto che i gatti cadono sempre in piedi. È vero. Allora, se noi leghiamo ovviamente è un paradosso, una fetta di pane imburrato sul dorso di un gatto e lo lanciamo in aria, siccome il gatto deve cadere sempre in piedi e la fetta di pane cade sempre dal lato imburrato, il sistema complesso non sa da che parte cadere, avremmo sostanzialmente un sistema di moto perpetuo, perché innescheremmo una rotazione costante, perché non si sa se deve cadere in piedi o il gatto o la fetta di pane imburrato. Bisognerebbe farlo cadere però da molto alto, bisogna farlo cadere da molto in alto e poi comunque così ruotando tu c'è un effetto ruota dinamo perennemente all'infinito e siamo nel campo dell'energia alternativa, in moto perpetuo e quindi vorremmo generare energia all'infinito. Grazie ancora Emiliano, ciao e a presto. Ciao a presto. Medios, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Ma perché noi parliamo di questa cosa? Perché ci sono di mezzo ingegneri informatici e sofisticata. Beh dai Federico, soprattutto tu sei abbastanza fissato con i big data. Assolutamente. Perché allora non dovremmo parlare dei pig data? Cioè dei porcelloni data. Dei dati da porcellino, da porcellino. Però non vedremo niente, adesso no. Te lo spieghi tu. No, infatti, parleremo solo di numeri, state tranquilli. Sì. No, non vediamo niente in realtà... anche perché siamo in radio, ma... Seppure fossimo in televisione, non vedremmo niente. No. Allora, intanto stiamo facendo riferimento ad un servizio, il servizio principale centrale di Wired di questo mese, di Wired Italia, firmato da Gaia Berruto, che è qui con noi questa sera. Benvenuta, ciao Gaia. Ciao Gaia. Hai lavorato su questo pezzone proprio perché sono tantissime pagine centrali di Wired. Intanto, bravissimi, il titolo è bellissimo, Big Data. Però ci tengo a citare anche il sottotitolo e poi lascio a te la parola. Allora, lì dove tu vedi solo donne maggiorate e uomini superdotati, i veri nerd vedono tag, percentuali e statistiche, perché il porno online è ormai tutta una questione di numeri. Insomma, Gaia, introduci un po', poi entriamo chiaramente nel vivo di questa analisi di dati, però se ci introduci un po' com'è nata questa inchiesta. Certo, l'idea principale era che ormai si parla tantissimo di big data, quindi l'utilizzo di flussi di numeri per spiegare dei fenomeni. Quindi la nostra idea era perché non utilizziamo anche i numeri, tantissimi numeri che vengono prodotti dall'industria pornografica online, quindi raccontare veramente che cosa piace agli utenti, che gli utenti non confessano, ma che i dati raccontano. E adesso entriamo, nel senso che i dati sono veramente tantissimi. Adesso, per fare soltanto qualche numero, per i numeri del porno, la Pornhub, che è uno di questi portali, uno dei più importanti, ha avuto 14,7 miliardi di visitatori soltanto nel 2013 e macina ogni giorno 5.000 terabyte, che sono una quantità spropositata per chi macina appunto queste unità di misura. Ma per fare un confronto, Facebook ad esempio ne macina 600. Qui siamo proprio a ordini di grandezza differenti. Sì, esatto. Il problema principale che abbiamo avuto nel cercare di raccontare la grandezza del porno online è l'assenza di dati. Quindi noi sappiamo che esistono tantissime piattaforme, ma queste piattaforme quasi mai dicono i loro dati, quindi dicono quanto streaming fanno, e quindi è veramente complesso. Di alcuni si sanno, ad esempio di Pornhub. Però vedendo anche soltanto uno delle centinaia di siti esistenti, solo quell'uno ti dimostra la grandezza. Cioè Pornhub 5.000 terabyte al giorno significa 200.000 film in Blu-ray ogni giorno, come se venissero ogni giorno messi online 200.000 film in alta definizione. Solo per farvi un esempio, scaricare la serie di Breaking Bad sono 20 giga. Ecco, Pornhub ogni giorno trasmette 5.120.000 giga. Non c'è confronto. Ecco Gaia, però esattamente che dati voi siete andati a vedere? Ovviamente questi delle connessioni, e poi dopo che cosa? Allora, noi abbiamo sfruttato un lavoro fatto da degli studiosi francesi che sono riusciti a entrare in possesso di dataset di 800.000 video di X-Hamster e 1.200.000 video di XNXX, che sono altre piattaforme. Ecco, sono altre piattaforme di questo tipo YouPorn e Pornhub, insomma, per chi non lo sapesse. Sì, esatto, ce ne sono tantissime. Prendendo questi dati, questi dataset, uno studio italiano che ci ha aiutato, che si chiama Accurat, è andato a vedere all'interno di questi i tag utilizzati ad esempio all'interno dei video o le parole chiave che vengono più cercate paese per paese, per capire ad esempio i gusti degli italiani rispetto a quelli degli inglesi, rispetto a quelli dei francesi, su cosa si cerca online. Sì, scusa, tag forse dobbiamo chiarirlo, è quella cosa che il gestore del sito, quella parola, anzi è una serie di parole di solito, che vengono messe per classificare quel dato che contenuto. Può essere un video, quella pagina, no? Esatto, il lavoro che sta facendo Pornhub è un lavoro stupendo, nel senso che Pornhub ha ormai una sezione del suo delle sue risorse umane dedicata unicamente a fare questo, cioè a catalogare il meglio possibile tutti i video, di modo che le persone in un batter d'occhio riescano a trovare quello che vogliono. Diciamo che è il segreto che permette a noi utenti di arrivare subito a quello che vogliamo. L'industria pornografica è molto attenta a non raccontare mai quello che fa, proprio perché vuole essere la prima, però noi sappiamo come fanno vedendo altre industrie che fanno più o meno uguale, ad esempio Netflix, che è una piattaforma di video streaming non porno, ha raccontato qualche tempo fa esattamente come fa a catalogare tutti i video per fare in modo che tu appena arrivi sulla piattaforma trovi quello che vuoi. Mm-hmm. Ha messo una serie di persone per vari giorni a catalogare secondo 76.000 microgeneri tutti i film, quindi film romantico, film con le coppie, film con le ragazze bionde, e in questo modo qua tu, anche se non sai bene cosa stai cercando, attraverso delle semplici parole che tu dici al sistema, il sistema ti rimanda esattamente quello che vuoi. La stessa cosa funziona con il video porno. Quindi un'indicizzazione proprio molto sofisticata, legata proprio alla categorizzazione e alle parole chiave. Ecco, ora veniamo all'analisi di queste parole chiave. Voi da qui vi siete di Logaia, vi siete divertiti insomma a tirare fuori quelle che sono anche le tendenze. Avete tirato fuori le tendenze di ogni singolo paese, cioè quali sono le preferenze, le parole chiave che ad esempio un italiano preferisce? Sì, esatto. La cosa divertente è che quello di cui ci siamo accorti è che le persone cercano situazioni in cui identificarsi. Quindi gli italiani come prima parola chiave cercano Italian e come seconda Sara Tommasi, quindi persone che conoscono, diciamo. Sara Tommasi, però introduciamola un attimo, che è Chiara, Sara Tommasi. Beh, penso che non abbia bisogno di presentazioni, comunque . È una bella ragazza, cosa fa? Fa video porno? In realtà sì, sembrerebbe in maniera amatoriale, aiutami Gaia a uscire da... Esatto, in cucina. Diciamo che nel 2013 uscì un video a luci rosse di Sara Tommasi che fece abbastanza discutere e che tutti andarono a cercare, per cui i dati che noi abbiamo preso sono ovviamente dati del 2013 per poterli poi processare, e quindi abbiamo visto che in quel periodo tutti cercavano questo video amatoriale che era stato messo online, ecco. Non si sa quanto a sua insaputa Però non è una pornostar, prima che ci quereli. Non è una pornostar, no. Okay. E quindi gli italiani cercano italiane, questo, sì. Quindi vuol dire... Ad esempio i coreani cercano coreane, i giapponesi cercano giapponesi, e i paesi arabi cercano le arabe. Ci sono poi delle eccezioni, e le eccezioni sono quelle divertenti, ad esempio gli islandesi sono un popolo super tranquillo, super ce lo si immagina molto sereni, tranquilli, la polizia non usa neanche le pistole quando sono a Reykjavik, per dire. La prima persona, la parola chiave che loro cercano è sadomaso. Ma pensa, sono pieni di vulcani. Quindi i video più cercati degli islandesi sono video, diciamo, abbastanza forti. Oppure gli israeliani cercano le magroline. Le magroline. Diciamo perché, però le magroline cercano, la parola chiave è skinny. Gli americani cercano le adolescenti. Questo è complicato, eh? Sì, e quindi, insomma, noi abbiamo creato una specie di atlante e ci si può divertire ad andare a vedere paese per paese quali sono le preferenze. Detto questo, l'analisi va avanti, voi vi siete sbizzarriti, cioè nel senso che poi a quel punto avete analizzato anche i personaggi che partecipano a questi video, ovviamente senza vederli, soltanto valutando quelli che sono i commenti degli utenti, oppure appunto, come dicevi tu, le tag e le parole chiave. E sono venute fuori anche le tendenze di quello che sono gli attori e le attrici porno che piacciono di più, insomma. Sì, allora, da una parte abbiamo visto quali sono le preferenze degli utenti, e quindi c'è una pagina a questo dedicato, e viene fuori che agli utenti piacciono le cosiddette, l'acronimo inglese è MILF, quindi diciamo, traduciamolo, donne mature. Le mamme un po' più attempate. Esatto, le mamme piacciono. E l'acronimo non è traducibile, Gaia. No, non lo traduciamo. No. Poi invece, però, per contrasto, siamo andati a vedere invece quali sono le pornografie più pregnate. Quindi siamo andati a prenderci tutti i premi dell'AVN Awards, che sono gli Oscar del porno, che vengono dati a Los Angeles tutti gli anni, e abbiamo preso tutti gli elenchi delle pornostar e dei pornostar più premiati per vedere quali erano i più apprezzati dall'Academy. E quello di cui ci siamo accorti è che spesso sono molto diverse rispetto a quelle che invece poi vengono cercate davvero. Ad esempio, tra le più nella nostra decade, la pornostar perfetta, quindi quella che ha avuto più premi dai responsabili del premio, è una donna mediterranea, quindi con i capelli scuri, con gli occhi scuri, con tanti piercing e con le tette piccole, sostanzialmente, con la seconda. Però è un po' cambiata la tendenza, perché cioè, mi sembra che un po' negli scorsi anni andasse invece un po' la Barbie, la maggiorata bionda, alta, un po' Valchiria, e invece qui c'è una morettona moderatissima, diciamo, nelle forme. Una Sasha Grey potremmo dire, che magari qualcuno conosce perché ha ormai abbandonato il porno, adesso fa la DJ e la scrittrice ed è diventata un po' un personaggio della cultura. E invece dal punto di vista femminile, mi piacerebbe sapere come è cambiata la tendenza nell'attore. Ecco, la cosa interessante nell'attore è l'età. Cioè, negli ultimi anni noi abbiamo preso i dati dal 1980 ad oggi, e quello che ci siamo accorti è che venendo sempre più vicino a noi aumenta l'età dell'uomo premiato, quindi il pornostar maturo piace. Addirittura ci sono dei pornostar che iniziano la carriera tardissimo, dopo i 40 anni, mentre invece per le donne è l'opposto, cioè la donna è sempre più giovane, vengono premiate ragazze sempre più giovani. E questo è un po' anche in controtendenza rispetto al gusto poi delle persone che cerca su internet e cerca donne mature. Infatti tu dicevi che in realtà la mamma sta funzionando, anche l'uomo però sta crescendo. Se non sbaglio, da qualche parte ho letto anche le nonne, cioè tra virgolette, insomma, anche quelle proprio un po' più vecchiotte. Ma va. Sì, tra i video più commentati in generale ci sono le granny, le nonne. Questo però dimostra anche, è abbastanza normale, perché dimostra lo spostamento tra chi dà i premi e invece il pubblico. È un po' come l'Academy Award degli Oscar, no? Magari la gente vorrebbe dare l'Oscar a DiCaprio dopo 30 anni che è lì che ci prova, ma l'Academy ancora non gliel'ha dato questo Oscar. E senti, ovviamente l'indagine è ricca, le pagine sono tante, non possiamo approfondire tutto. Chiuderei con un aspetto interessante. Il porno sta cercando di rendersi un pochino più popolare e di entrare anche un po' nei social, nel senso, se ne fa largo uso, ma silenzioso, come dire. Ecco, comincia ad apparire in Facebook, e ci sono proprio questi portali, Pornhub in particolare, studia tutte delle strategie di marketing molto molto attente e dal punto di vista informatico molto complicate per riuscire ad arrivare al più largo pubblico possibile. Qualcuno ha studiato anche qualcosa per i mondiali e sono venute fuori delle cose molto interessanti che ti chiederei di raccontarci. Sì, certo, Pornhub cerca di entrare nel dibattito pubblico e si è accorta, ovviamente, come tutti noi, che i social network sono una miniera di possibilità per riuscire a emergere, e quindi cerca di utilizzare i suoi dati che lei ha per fare delle cose divertenti. Ad esempio, durante i mondiali si è messa a fare delle infografiche per far vedere come cambiava il flusso di persone presenti sul portale, in questo caso sui dati sono di YouPorn, a seconda delle partite. Ad esempio, ricordiamoci Italia-Inghilterra durante i mondiali, che noi la ricordiamo bene perché è l'unica partita che l'Italia ha vinto durante i mondiali. Durante la partita, i 90 minuti, in Inghilterra e in Italia il traffico su YouPorn è sceso del 40%. Erano impegnati. Dopo, in Italia c'è stato un picco dell'80% rispetto alla media quotidiana. Quindi vuol dire che le persone, dopo la partita, entusiasti di aver vinto, sono andati tutti su YouPorn. Elettrizzati. Siamo da soli o in compagnia. Insomma, per festeggiare hanno deciso di divertirsi a proprio modo. Esatto. E in generale diciamo che Pornhub ci prova tantissimo a entrare nel dibattito pubblico in modo anche divertente. Ricordo solo questo. Qualche mese fa Barack Obama ha messo online una piattaforma per permettere a tutti la copertura sanitaria, a tutti gli americani. È stato un flop, nel senso che la piattaforma non funzionava, non si riusciva ad accedere. E i ragazzi di Pornhub hanno scritto una lettera aperta al Presidente degli Stati Uniti dicendo noi abbiamo gli ingegneri più talentuosi al mondo. La facciamo grazie noi. La piattaforma ve la risolviamo noi, gratis, non vi preoccupate. L'amministrazione ovviamente ha declinato, anche un po' imbarazzata, però è stata una mossa anche quella di marketing strepitosa. Va bene, grazie Gaia davvero, bell'articolo. Chi volesse approfondire, ci sono delle belle paginate su Wired. In edicola. Ciao, buon lavoro. Grazie a voi, ciao. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Commentando questo argomento che stiamo per trattare, Chiara, dicevamo, dopo un'estate di docce fredde, docce che hanno, ghiacciate che hanno promosso la SLA, la ricerca contro la SLA. Sì. Beh, è arrivata invece una doccia calda e confortevole, sì. Una coincidenza quanto mai interessante. C'è una possibilità di diagnostica precoce della SLA, è una ricerca italiana. Noi abbiamo qui questa sera con noi quelli che l'hanno portata avanti. Marco Pagani, buonasera Pagani. E buonasera a tutti. Dell'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR, e poi abbiamo anche Adriano Chiò, buonasera Chiò. Buonasera. Buonasera. Del Centro SLA di Torino, che fa parte del Dipartimento Neuroscienze dell'Ospedale Molinette, appunto, di Torino. Allora, se ne è parlato tanto, ma forse un'introduzione è doverosa di questa malattia, che appunto l'acronimo è sclerosi laterale amiotrofica, la SLA. Chiò, se ce la vuole introdurre. Sì, ci dica, diamo un quadro di che cos'è questa brutta patologia. Sì, la SLA è una malattia che in realtà fu scoperta quasi un secolo e mezzo fa da Charcot in Francia. È una malattia cosiddetta neurodegenerativa, cioè caratterizzata da un processo di degenerazione dei neuroni e nello specifico soprattutto dei neuroni che controllano il movimento e la funzione muscolare. E ha un decorso progressivo, cioè il danno muscolare inizia in una sede, magari una mano o un piede, poi comincia a estendersi agli altri muscoli fino a interessare tutta la muscolatura, quella compresa quella respiratoria e quella della funzione di deglutizione della parola. E il decorso, i tempi di questa malattia quali sono? Il decorso è variabile da soggetto a soggetto, la media di decorso è intorno ai 3 anni, ma vi sono soggetti con decorsi anche molto più lunghi o talora più brevi. Ecco, l'aspetto brutto è che insomma si degenerano i muscoli, ma il cervello rimane attivo e sempre vigile. Ecco. A questo proposito arriva una buona notizia da questo vostro team italiano, noi siamo contenti appunto di raccontarla, su quella che è la diagnostica il più possibile precoce di questa malattia. Pagani, se ci vuole lei raccontare che cosa avete individuato come innovativo metodo di diagnosi. Allora, innanzitutto la cosa veramente interessante di questo studio è che è stata utilizzata una strumentazione, la PET, la tomografia ad emissione di positroni, che è disponibile in quasi tutti i dipartimenti di medicina nucleare in Italia e nel mondo. Quindi la metodologia di per sé non è particolarmente innovativa, avanzata, ma si è utilizzato un mezzo al quale grosso modo tutti i neurologi potrebbero riferire. Questo è un vantaggio notevole. Notevole, e la novità appunto sta proprio nell'aver individuato. Esattamente, quindi noi quello che abbiamo fatto innanzitutto lo sforzo che è stato fatto in concerto con l'ospedale delle Molinette, che ha presso il quale si riferivano i pazienti con sclerosi laterale amiotrofica, e il centro PET IRMED di Torino, è stato di riuscire a fare queste PET in un numero enorme di pazienti rispetto a quelli che normalmente vengono studiati nelle malattie neurodegenerative. Noi abbiamo una serie in questo lavoro di circa 200 pazienti che sono stati analizzati, e abbiamo raccolto ancora ulteriori 100 pazienti che verranno inclusi negli studi futuri. Quello che abbiamo trovato è stato un modello di distribuzione del metabolismo nella corteccia cerebrale, nelle regioni sottocorticali, che è unico per quanto riguarda la SLA rispetto a qualunque altra malattia neurodegenerativa e rispetto ai soggetti di controllo. Quindi è come se avessimo identificato con questa metodica, nel momento in cui il soggetto viene comparato ai soggetti con una SLA certa e dei soggetti di controllo, una firma sulla corteccia cerebrale di quella che è la malattia. Questo permette, come appunto avete introdotto voi, una diagnosi diciamo precoce, ma forse ancora meglio dire tempestiva, perché nell'istante in cui il soggetto viene esaminato, immediatamente il clinico può avere, con una attendibilità del 95%, l'informazione che il soggetto ha o no, è portatore o no di malattia. E Chio, quali sono i metodi tradizionali che invece fino ad ora si sono utilizzati? Sì, la diagnosi oggi si basa soprattutto sulla storia clinica, l'anamnesi e sull'esame obiettivo, cioè sullo stato e le condizioni del paziente, in particolare la presenza dei segni di danno dei due motoneuroni. Come strumentazione aggiuntiva è estremamente importante l'elettromiografia, che permette di osservare il danno del muscolo. Purtroppo però l'elettromiografia ha una specificità relativamente ridotta, per cui ci dà l'informazione che c'è il danno, ma non ci fa di per sé diagnosi della malattia. Ma quindi, ritornando a lei Pagani, la differenza tra questa tecnologia che state mettendo a punto e quello che si fa adesso è consistente? La differenza è consistente, come ha detto il professor Chio, soprattutto per quanto è sensibile questa tecnica rispetto alle tecniche utilizzate in precedenza. La stessa risonanza magnetica, alla quale più o meno tutti i pazienti prima o poi con la quale prima o poi tutti i pazienti vengono esaminati, ha una sensitività circa dell'80%, quindi un miglioramento di questo tipo del 15% di quella che è l'attendibilità del metodo è molto importante nelle neuroimmagini. E poi sicuramente diciamo che rispetto alla risonanza magnetica, ma questa tecnica ha la capacità di mantenere il paziente all'interno, diciamo, dello strumento per un tempo molto minore, ed è uno strumento molto più confortevole rispetto alla risonanza magnetica. Adriano Chio, possiamo chiederle un po' di cose in generale, insomma, su questa patologia, per esempio incominciando dal fatto che com'è in termini per esempio di genere, maschi e femmine, com'è distribuita? Colpisce. Sì, dunque è una malattia che colpisce con una lieve maggiore prevalenza i maschi, il rapporto tra maschi e femmine di circa 4 maschi ogni 3 femmine, anche se negli ultimi 20 anni si è osservata una netta riduzione della frequenza nell'ambito, o meglio una netta riduzione di questa differenza, cioè un aumento di frequenza nell'ambito del sesso femminile. Ed è una malattia, una patologia che sta crescendo o invece? La frequenza della malattia probabilmente non è in aumento, apparentemente sembra aumentare solo perché, poiché colpisce di solito persone di età medio avanzata, si è un aumento della popolazione che noi abbiamo oggi, perché aumenta la durata media di vita, e il risultato è che c'è un lieve aumento del numero dei casi, ma in termini strettamente epidemiologici non c'è un aumento. Però non possiamo prevenirla perché non disponiamo oggi in alcun modo per riuscire a impedire la comparsa della malattia, e questo ovviamente fa sì che questo è un aspetto estremamente importante che dovremmo studiare per ridurre anche l'impatto della malattia stessa. Senta, com'è distribuita geograficamente, insomma, e nel mondo? E anche come entità, quanti sono ad esempio i malati in Italia? Sì. Allora, in Italia ci sono circa 5.000 malati, si ammalano ogni anno dai 1.500 alle 2.000 persone di questa malattia, e la distribuzione, per quanto noi sappiamo, nei paesi occidentali è sostanzialmente omogenea, tranne alcuni particolari raggruppamenti, ma sono dovuti alla presenza di forme genetiche della malattia in alcuni territori, ad esempio il nord della Finlandia, il nord della Svezia, per fare un esempio abbastanza rilevante, ma non sappiamo molto, anzi direi che sappiamo decisamente poco per quello che concerne i paesi in via di sviluppo, perché di fatto non abbiamo degli studi attendibili fatti in questi paesi. Ma anche in paesi come la Russia, per esempio, la Cina, insomma? Cominciamo ad avere qualche dato sulla Cina, non abbiamo sostanzialmente alcun dato sulla Russia. E si conoscono dei fattori, ad esempio, di innesco che influenzano il sopraggiungere di questa malattia? I fattori più importanti che noi conosciamo sono quelli genetici. Circa il 10-15% dei casi dei soggetti affetti da SLA ha una forma genetica con un gene che è quasi sempre identificabile, in realtà sono numerosi i geni che la causano. Per il restante 85-90% non abbiamo idea, sono quelli che noi chiamiamo casi sporadici, e per questi casi si ipotizzano dei fattori ambientali che sono per il vero ancora abbastanza oscuri. Quando si parla di strategie appunto di intervento curative, vengono sempre in ballo due aree, si parla di staminali e poi si parla di terapia genica, ma di terapia genica mi pare che si parli molto meno, no? Lei dice, Chio. Sicuramente. Beh, staminali sono questa grande promessa della scienza che per ora, almeno in campo neurologico, non è ancora diventata una realtà, e abbiamo davvero molto percorso ancora da fare per capire come usare e quale livello di efficacia reale possono avere le staminali, anche perché poi le staminali non sono un'unica entità, vi sono numerosi tipi. Certamente invece la tecnologia delle terapie geniche sta facendo passi molto più rapidi e abbiamo già nel caso della SLA un primo studio di fase 1 di terapia genica con gli oligonucleotidi antisenso che bloccano la produzione della proteina malata, diciamo. E questo è già stato pubblicato su pazienti con la mutazione superossido dismutasi 1 o SOD1. Arriverà probabilmente già nel 2015 a studio di fase 2, cioè un vero studio di valutazione di efficacia di questo tipo di trattamento. Beh, insomma, qualche speranza c'è, ovviamente lei ci diceva il percorso è lungo, speriamo che anche i fondi raccolti in questa estate così, abbiamo visto questo fenomeno un po' modaiolo, ma guardiamo la sostanza, insomma, speriamo si possa davvero raggiungere risultati importanti. Grazie davvero e buon lavoro. Grazie. Grazie Pagani, grazie Chio. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Vi dicevamo all'inizio della trasmissione che avremmo parlato di questo manuale costruito e pubblicato negli Stati Uniti, ma poi di fatto si diffonde in tutto il mondo, e che ha come obiettivo quello di tracciare, di descrivere, di fissare tutte le possibili forme del disagio mentale. E su questo manuale ogni tanto, ne abbiamo già parlato credo, se non ricordo male, un paio di anni fa, quando era anticipata questa edizione, nascono sempre delle polemiche, adesso è uscito e c'è ancora dibattito su questo oggetto. Per parlarne ho qui con me questa sera Vittorio Lingiardi. Buonasera Lingiardi. Buonasera, buonasera. Psichiatra e ordinario alla Sapienza di Roma di valutazione clinica e diagnosi. Allora Lingiardi, il manuale è il Diagnostic Manual of Mental Disorders, DSM, circola sempre questo acronimo. Ah, tra l'altro Lingiardi, io volevo chiedere, ma questa può darsi che abbia un'accezione, un sound diverso, non lo so, ma non è abbastanza forte con questa definizione del disordine mentale? Beh, in inglese forse disorder significa disturbo. Disturbo, ecco, non è interpretato. Quindi la traduzione italiana è manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. Dei disturbi mentali. Su questo libro, su questo manuale, è uscito un altro testo dello psichiatra americano Alan Francis, La diagnosi in psichiatria sempre, edito da Raffaello Cortina. E poi è uscito anche un suo libro, però non è tanto sul Diagnostic Manual, che il titolo è La personalità e i suoi disturbi, che lei ha scritto anche con Francesco Gazziello, sempre da Raffaello Cortina, e vedremo che anche questo testo ha a che vedere con quello che stiamo per discutere. Oh, naturalmente Lingiardi, credo che sia bene avvisare subito ascoltatori e ascoltatrici che questi testi di cui stiamo parlando non sono dei testi magari anche così interessanti, corposi, ma che si leggono normalmente, sono abbastanza per addetti ai lavori e per gente che magari non è necessariamente sono psichiatri o psicanalisti, ma che però hanno un rapporto, insomma, forte, no, con questo tipo di tematiche. Beh, decisamente sì, diciamo, non sono dei libri di intrattenimento e tengo a precisare, non sono nemmeno dei manuali cosiddetti di self-help, cui uno un giorno si sente un po' giù di morale, allora va a consultare il DSM per vedere in quale vasto regno dei disturbi dell'umore può collocarsi. Allora, senta, su questo manuale, che è arrivato alla quinta edizione, ecco. Ma nel suo percorso, è un percorso storico molto lungo, nasce nel 1952 il primo DSM e siamo al 2013, si chiama DSM V, ma nel frattempo ci sono state delle edizioni che si chiamano Text Revised, per cui per esempio il DSM IV è uscito nel 2000 come DSM IV e poi successivamente come 2000, come DSM Text Revised, cioè vuol dire revisione. Questo è importante perché ci fa capire come, anche semplicemente nell'arco di 60 anni, il mondo della diagnosi psichiatrica è un mondo in continua trasformazione, in continua evoluzione. Io credo che dal DSM degli anni 50 a quello di oggi l'aumento di pagine sia stato incredibile, cioè oggi il manuale DSM ha 1000 pagine, nel 52 ne aveva 100. Da una parte perché aumentano gli studi, aumenta la precisione diagnostica e c'è una denominazione continua di stati che prima erano, diciamo, classificati in maniere più generiche e adesso diciamo c'è una passione per il dettaglio, se vogliamo fare superiore. Una battuta, c'è chi ha scritto anche che la compilazione così meticolosa e la classificazione, la codifica delle, dei disturbi mentali così attenta è frutto del disturbo ossessivo degli di chi compila il manuale. Quindi diciamo c'è una sorta di circolarità tra disturbi psicologici, che è una battuta fino a un certo punto, perché lo psichiatra che lei citava all'inizio, Alan Francis, una delle critiche proprio che fa al DSM-5 è di avere allargato troppo i confini della patologia mentale, di aver incluso, definito, denominato delle condizioni che lui non considera assolutamente morbose, ma considera, diciamo così, delle normali variazioni dello stato mentale nel contesto della vita delle persone. Ecco, questo è il centro del dibattito, non solo da parte di questo autore, ma un po' in generale, no? Cioè... Beh, è un dibattito sicuramente, diciamo, che ha due facce. Una faccia è, possiamo chiamarla, l'antidiagnosticismo tout court, che è una posizione per esempio che io non condivido assolutamente, cioè chi dice che la diagnosi in sé, che siano poche o siano tante, che siano generiche o che siano iperdettagliate, la diagnosi in sé è un atto di oggettivazione, di reificazione della complessità umana e quindi diciamo c'è chi si schiera apertamente contro la possibilità di fare diagnosi, diciamo sottraendo sostanzialmente la psichiatria all'ambito medico, perché in medicina le diagnosi si fanno per le affezioni polmonari, per i disturbi gastrointestinali, quindi, quindi questa è una posizione diciamo duramente antidiagnosticista, devo dire piuttosto minoritaria, ma non è certamente il caso di Alan Francis, anzi tra l'altro Alan Francis e la curiosità di questo caso diciamo editoriale è proprio questa, Alan Francis è stato il coordinatore scientifico, il capo in testa del DSM-4 e adesso attacca pesantemente il DSM-5. Perché? Non certo perché è un oscurantista antidiagnosta, ma perché dice che col DSM-5 si è superato il limite. Lui ha scritto un altro libro che è stato pubblicato da Boringhieri ed è uscito pochi mesi fa, che ha un titolo che dice tutto: Non curare chi è normale. Cioè Alan Francis dice che il DSM-5 nel voler diagnosticare tutto ha diagnosticato anche quello che non andava diagnosticato e ha creato delle categorie diagnostiche che lui considera dannose per due motivi. Uno perché diciamo descrive come malata della gente che malata non è, ma poi perché dando un'etichetta diagnostica innesca un processo, per esempio di tipo farmacologico commerciale, per cui fatta la diagnosi, data l'etichetta, allora certo arriverà l'azienda che trova il farmaco e quindi introduce la diagnostica psichiatrica, capisco, in un business. Certo. Ecco, ma senta Lingiani, però è difficile insomma da fuori, per non addetti, capire proprio nel caso del disagio mentale. Cioè si riesce a definire, per esempio, non so, per una forma di ansia che può avere tante sfumature, si riesce appunto a definire, ecco, questo effettivamente è, questo può essere riconosciuto come un disturbo, questo è un livello normale, è possibile insomma, perché sembra che le gradazioni siano infinite. Perfetta, una domanda giustissima perché ci aiuta a riflettere davvero sulla diagnosi. La diagnosi che cosa è? La diagnosi è l'incontro tra un aspetto, scusate se uso un termine un po' complicato, che noi chiamiamo nomotetico, cioè vuol dire quanto una manifestazione psichica o comportamentale rientra in una categoria generale di manifestazioni psichiche simili che accomuna varie persone. Diciamo, un attacco di panico che ha certe caratteristiche, addirittura anche somatiche, oltre che psicologiche, rientra nella grande categoria attacco di panico e può riguardare il signor Rossi, il signor Bianchi e il signor Verdi. Per avere un attacco di panico devono essere rispettate determinate condizioni. Sì. Poi c'è invece un altro aspetto, che sempre con un termine di origine dal greco antico si chiama idiografico, che invece parla della diagnosi come una necessità anche di adattare la categoria generale dalla condizione individuale specifica del soggetto, quindi il suo contesto sociale, il suo contesto culturale, le sue caratteristiche di personalità, la sua unicità. In questa tensione tra unicità e specificità, tra specificità e generalizzabilità, si situa il lavoro del diagnosta, che deve riconoscere quali sono le caratteristiche di una malattia o di un disturbo psichiatrico o di una manifestazione comportamentale considerata psicopatologica, e anche però riconoscere le caratteristiche individuali non di una malattia ma di un individuo che può o meno presentare le caratteristiche di un disturbo. Quindi questo fa sì che il DSM si proponga come classificazione delle malattie, cioè di come vengono descritti i disturbi. Poi l'applicazione da descrizione del disturbo a condizione individuale, che per esempio non si fa semplicemente compilando una scala di valutazione, ma si fa facendo un colloquio, cercando descrivere e di cogliere la complessità dell'esperienza, compresa anche la dimensione soggettiva, come uno vive la sua ansia. Non tutti vivono la propria ansia in modo diverso. In questa tensione tra l'individuo con un disturbo e il disturbo per come viene, sulla base anche della ricerca empirica, della classificazione scientifica descritto, si deve situare il lavoro diagnostico. Mi pare di cogliere allora, in conclusione brevemente, Lingiardi, che l'attenzione va posta sul fatto di non guardare, utilizzare questo manuale in modo troppo automatico. Sì, non in modo non automatico, in modo non restrittivo, e cercare appunto di capire che la diagnosi è un fatto medico, è un fatto clinico, è anche un fatto relazionale. Una diagnosi ha senso anche posta in relazione a una previsione di trattamento, e forse è un fatto complesso che per esempio mi ha spinto a scrivere questo manuale, che giustamente lei ricordava, poi è destinato alla formazione degli studenti, che si chiama La personalità e i suoi disturbi, valutazione e diagnosi al servizio del trattamento. Quindi ho cercato di utilizzare delle parole chiave anche proprio per restituire l'importanza dell'individuo, della sua personalità, delle sue caratteristiche, cercare di capire all'interno di questa specificità individuale quali sono le caratteristiche diagnostiche che possono portare il clinico a fare una diagnosi, e poi pensarla anche in relazione a quella che è la prospettiva della cura e del trattamento. Vittorio Lingiardi, grazie e buon lavoro. Grazie. Giusto il tempo per salutarvi e dirvi che Moebius finisce qui, e quindi ci sentiamo fra 7 giorni. Buona settimana a tutti e a tutte.